L'uccello gli camminava a fianco. Pareva stesse contando ad uno i ciottoli di corso Ercole Primodeste. A quelle parole, davvero inconsuete, in bocca allo scettico amico, si girò stupito a guardarlo. E infatti, che cosa sapeva lo stesso Elia Corcos? Aveva esaminato a lungo il corpo inerte del bambino, decretato mentalmente prognosi infausta, quindi, alzati gli occhi, li aveva fissati in quelli impietriti dei due genitori. Un vecchio, il padre, la madre, ancora una ragazza. Per quali vie sarebbe potuto scendere a leggere in quei due cuori? E chi altro mai, in futuro? L'epigrafe dedicata al piccolo morto, nella tomba monumentale del cimitero israelitico, 7 righe assai blandamente incise e inchiostrate su un umile rettangolo di marmo bianco, avrebbe detto soltanto: Ai, Guido Finzi Contini, 1908-1914, eletto di forma e di spirito, i tuoi genitori si preparavano a vieppiù amarti, non già a piangerti. Vieppiù. Un sommesso singhiozzo, e basta. Un peso sul cuore da non dividere con nessun'altra persona al mondo. Alberto era nato nel 15, Micol nel 16. All'incirca miei coetanei. Non furono mandati né alle elementari ebraiche di via Vignatagliata, dove Guido aveva frequentato senza finirla la prima preparatoria, né più tardi al pubblico liceo ginnasio Giovan Battista Guarini, precoce crogiuolo della migliore società cittadina, ebraica e non ebraica, e quindi almeno altrettanto sacramentale. Studiavano invece privatamente, sia Alberto sia Micol. Il professor Ermanno, interrompendo ogni tanto i suoi solitari studi di agraria, fisica e storia delle comunità israelitiche d'Italia, per sorvegliare da vicino i loro progressi. Erano gli anni folli, ma a loro modo generosi, del primo fascismo emiliano. Ogni azione, ogni comportamento venivano giudicati anche da chi, come mio padre, citava volentieri Orazio e la sua Aurea Mediocritas, attraverso il rozzo vaglio del patriottismo o del disfattismo. Mandare i propri figlioli alle scuole pubbliche era considerato in genere patriottico, non mandarceli disfattistico, e quindi, per tutti coloro che ce li mandavano, decisamente offensivo. Se non che, pur così segregati, un esile rapporto con l'ambiente esterno, coi ragazzi che come noi andavano alle scuole pubbliche, Alberto e Micol Finzi Contini l'avevano sempre mantenuto. Erano due professori del Guarini che avevamo in comune a fungere da tramite. Ma a parte gli insegnanti che avevamo in comune, c'erano poi gli esami riservati ai privatisti, esami che si svolgevano a giugno contemporaneamente agli altri esami di Stato e interni, a metterci almeno una volta all'anno in contatto diretto con Alberto e Micol. Per noi allievi interni, soprattutto se promossi, non c'erano forse giorni più belli. Come se ad un tratto rimpiangessimo i tempi appena finiti delle lezioni e dei compiti, per darci convegno non trovavamo per solito luogo migliore dell'atrio dell'istituto. Si indugiava nell'androne vasto, fresco e semibuio come una cripta, assiepandoci davanti ai grandi fogli bianchi degli scrutini finali, affascinati dai nostri nomi e da quelli dei nostri compagni, che a leggerli così, trascritti in bella calligrafia ed esposti sotto vetro, di là da una leggera grata di fil di ferro, non finivano mai di stupirci. Era bello non aver più niente da temere dalla scuola, bello poter uscire di lì a poco nella luce limpida e azzurra delle 10 di mattina, ammiccante laggiù, attraverso la postiera d'ingresso. Bello avere dinanzi a sé lunghe ore d'ozio e di libertà da spendere come meglio ci fosse piaciuto. Tutto bello, tutto stupendo in quei primi giorni di vacanza. E quale felicità al pensiero sempre ritornante della prossima partenza per il mare o per la montagna, dove dello studio, che ancora affaticava e angustiava tanti altri, si sarebbe perduto quasi il ricordo. Ed ecco, fra questi altri, rozzi ragazzotti di campagna, i più figli di contadini preparati agli esami dal parroco del paese, che prima di varcare la soglia del Guarini si guardavano attorno, smarriti come vitelli condotti al mattatoio, ecco Alberto e Nicole Finzi Contini, appunto. Niente affatto smarriti, loro, abituati come erano da anni a presentarsi e a trionfare. Forse leggermente ironici, specie nei miei riguardi, quando, attraversando l'atrio, mi scorgevano fra i miei compagni e mi salutavano di lontano con un cenno e un sorriso. Ma educati, sempre, magari troppo, e gentili, proprio come degli ospiti. Non venivano mai a piedi, e tantomeno in bicicletta, bensì in carrozza, un brum azzurro scuro dalle grandi ruote gommate, le stanghe rosse e lustro tutto di vernici, cristalli, nichelature. La carrozza attendeva lì, davanti al portone del Guarini, ore e ore, non spostandosi che per cercare l'ombra. E bisogna dire che esaminare l'equipaggio da vicino, in tutti i particolari, dal cavallone poderoso, di tanto in tanto calmamente scalciante, con la coda mozza e la criniera tagliata corta, a spazzola, sino alla minuscola corona nobiliare che spiccava argentea sul fondo blu degli sportelli, ottenendo addirittura, talora, dall'indulgente cocchiere in tenuta bassa, ma assiso in serpa come su un trono, il permesso di montare su uno dei predellini laterali, di modo che potessimo contemplare a nostro agio il naso schiacciato contro il cristallo, l'interno tutto grigio, felpato e in penombra. Pareva un salotto. In un angolo c'erano perfino dei fiori infilati dentro un esile vaso oblungo a foggia di calice. Poteva essere anche questo un piacere, anzi, lo era senz'altro, uno dei tanti avventurosi piaceri di cui erano prodighe allora per noi quelle meravigliose, adolescenti mattine di tarda primavera. Per ciò che concerne me personalmente, ad ogni modo, c'era stato da sempre nei miei rapporti con Alberto e Nicole qualcosa di più intimo. Le occhiate d'intesa, i cenni confidenziali che fratello e sorella mi indirizzavano tutte le volte che ci incontravamo nei pressi del Guarini non alludevano che a questo, lo sapevo bene, riguardante noi e soltanto noi. Qualcosa di più intimo. Ma che cosa, propriamente? Si capisce, in primo luogo eravamo ebrei. E questo in ogni caso sarebbe stato più che sufficiente. Mi spiego, tra noi poteva non esserci nulla di comune, nemmeno quel poco che derivava dall'aver scambiato talora qualche parola. La circostanza però che fossimo quelli che eravamo, che almeno due volte all'anno, a Pasqua e a Kippur, ci presentassimo coi nostri rispettivi genitori e parenti stretti davanti al medesimo portone di via Mazzini, e spesso accadeva che, avendo infilato il portone tutti assieme, l'atrio successivo, angusto e mezzo al buio, obbligasse i grandi alle scappellate, alle strette di mano, agli inchini ossequiosi che per il resto dell'anno non avevano nessun'altra occasione di scambiarsi, a noi ragazzi non sarebbe occorso niente di più perché, ritrovandoci altrove e soprattutto in presenza di estranei, passasse subito nei nostri occhi l'ombra o il riso di una certa speciale complicità e connivenza. Che fossimo ebrei, tuttavia, e iscritti nei registri della stessa comunità israelitica, nel caso nostro contava ancora abbastanza poco. Giacché cosa mai significava la parola ebreo, in fondo? Che senso potevano avere per noi termini come comunità o università israelitica? Visto che prescindevano completamente dall'esistenza di quell'ulteriore intimità, segreta, apprezzabile nel suo valore unicamente da chi ne era partecipe, derivante dal fatto che le nostre due famiglie, non per scelta, ma in virtù di una tradizione più antica di ogni possibile memoria, appartenevano allo stesso rito religioso, o meglio, alla stessa scuola. Quando ci incontravamo sulla soglia del portone del tempio, in genere all'imbrunire, dopo gli imbarazzati convenevoli scambiati fra i nostri genitori nella penombra del portico, finiva quasi sempre che salissimo in gruppo anche le ripide scale che portavano al secondo piano, dove ampia, gremita di popolo misto, echeggiante di suoni d'organo e di canti come una chiesa, e così alta sui tetti che in certe sere di maggio, coi finestroni laterali spalancati dalla parte del sole al tramonto, a un dato punto ci si trovava immersi in una specie di nebbia d'oro, c'era la sinagoga italiana. Ebbene, solamente noi, ebrei, d'accordo, ma cresciuti nell'osservanza di un medesimo rito, potevamo renderci davvero conto di quel che volesse dire avere il proprio banco di famiglia nella sinagoga italiana, lassù, al secondo piano, invece che al primo, in quella tedesca, così diversa nella sua severa accolta, quasi luterana, di facoltose lobby borghesi. E non era tutto. Perché, anche a dare per risaputa fuori dall'ambiente strettamente ebraico una sinagoga italiana distinta da una tedesca, con quanto di particolare tale distinzione implicava sul piano sociale e sul piano psicologico, chi, oltre noi, sarebbe stato in grado di fornire precisi ragguagli intorno a quelli di Via Vittoria, tanto per fare un esempio? Con questa espressione, di solito, ci si riferiva ai membri delle quattro o cinque famiglie che avevano il diritto di frequentare la piccola, separata sinagoga levantina, detta anche Fanese, situata al terzo piano di una vecchia casa d'abitazione di Via Vittoria. Ai Daffano di Via Scienze, appunto, ai Cohen di Via Gioco del Pallone, ai Levi di Piazza Ariostea, ai Levi Minzi di Via Le Cavour, e non so a quale altro isolato nucleo familiare. Tutta gente un po' strana, ad ogni modo, tipi sempre un tantino ambigui e sfuggenti, per i quali la religione, che a scuola italiana aveva assunto forme di popolarità e teatralità pressoché cattoliche, con riflessi evidenti anche nei caratteri delle persone, aperti e ottimisti, per lo più molto padani, era rimasta essenzialmente culto da praticare in pochi, in oratori semiclandestini a cui era opportuno dirigersi di notte, irradendo alla spicciolata i vicoli più oscuri e peggio noti del ghetto. No, no, soltanto noi, nati e tirati su intramuros, per così dire, potevamo sapere, comprendere davvero queste cose. Sottilissime, certo, forse praticamente irrilevanti, ma non perciò meno reali. Gli altri, tutti gli altri, senza escludere dal novero nemmeno i compagni di scuola, gli amici d'infanzia e di giochi incomparabilmente più amati, almeno da me, inutile pensare di erudirli in una materia così privata. Povere anime. A questo proposito non erano da considerarsi tutti se non degli esseri semplici e rozzi, condannati in vita in fondo a irremeabili abissi di ignoranza, ovvero, come diceva perfino mio padre, sogghignando benignamente, dei negri goim. Dunque, quando capitava, salivamo insieme le scale, insieme facevamo il nostro ingresso in sinagoga. E poiché i nostri banchi erano vicini, prossimi laggiù al recinto semicircolare, delimitato torno torno da una ringhiera di marmo, al centro del quale sorgeva la tevà o leggio dell'officiante, e ambedue in ottima vista del monumentale armadio di nero legno scolpito che custodiva i rotoli della legge, i cosiddetti sefarim, valicavamo insieme anche il sonoro pavimento a losanghe bianche e rosa della grande sala. Madri, mogli, zie e sorelle si erano separate da noi uomini nel vestibolo, sparite in fila indiana dentro un piccolo uscio a muro che dava in uno stambugio, di qui, arrampicandosi per una scaletta a chiocciola, erano salite ancora più su, nel matroneo, e fra poco le avremmo riviste occhieggiare dall'alto della loro stia posta appena sotto il soffitto attraverso i fori delle grate. Ma anche così, ridotti ai soli maschi, e cioè io, mio fratello Ernesto, mio padre, il professor Ermanno, Alberto, nonché a volte i due fratelli celibi della signora Olga, l'ingegnere e il dottor Herrera, calati da Venezia per l'occasione, anche così facevamo gruppo abbastanza numeroso. Significativo e importante comunque, tanto è vero che mai, in qualsiasi momento della funzione fossimo apparsi sulla soglia, ci era dato di raggiungere la meta senza suscitare in giro la più viva curiosità. Come ho già detto, i nostri banchi erano vicini, uno dietro l'altro. Noi Occupavamo il banco più avanti, in prima fila, e i Finzi Contini, quello dietro, in seconda, sicché, anche volendo, sarebbe stato difficile ignorarsi. E tuttavia, pur così diversi come erano, io li sentivo fra loro profondamente solidali. Che cosa c'era di comune, parevano dirsi tutti e quattro, fra loro e la platea distratta, bisbigliante, italiana, che anche al tempio, dinanzi all'arca spalancata del Signore, continuava a occuparsi di tutte le meschinità della vita associata, di affari, di politica, perfino di sport, ma non mai dell'anima e di Dio? Io ero un ragazzetto allora, fra i 10 e i 12 anni. Un'intuizione confusa, sì, ma sostanzialmente esatta, si accompagnava in me al dispetto e all'umiliazione, altrettanto confusi, però cocenti, di far parte della platea, della gente volgare da tenere alla larga. E mio padre? Di fronte alla parete di vetro, di là dalla quale i Finzi Contini e gli Herrera, gentili sempre, ma distanti, continuavano praticamente a ignorarlo, si comportava in maniera opposta alla mia. Invece di tentare, come me, degli approcci, lo vedevo esagerare per reazione, lui laureato in medicina e libero pensatore, lui volontario di guerra, lui fascista con tessera del 19, lui appassionato di sport, lui ebreo moderno, insomma, la propria sana insofferenza davanti a qualsiasi troppo pedissequa o smaccata esibizione di fede. Quando lungo i banchi passava la lieta processione dei Sefarim, avvolti nelle ricche mantelline di seta ricamata, le corone d'argento di sghimbescio e le campanelline tintinnanti, sembravano i sacri rotoli della Torah una teoria di lattanti regali esibiti al popolo a rinforzo di qualche monarchia pericolante, il dottore e l'ingegnere Herrera erano pronti a sporgersi impetuosamente fuori dal banco, baciando quante più cocche di mantelline potevano, con una avidità, una golosità quasi indecente. Che cosa contava che il professor Ermanno, imitato dal figlio, si limitasse a coprirsi gli occhi con un lembo del Taled e a bisbigliare a fior di labbra una preghiera? Quante smancerie, quanto altud, avrebbe commentato più tardi a tavola mio padre, con disgusto, senza che ciò gli impedisse, magari, subito dopo, di tornare una volta di più sull'ereditaria superbia dei Finzi Contini, sull'assurdo isolamento nel quale vivevano, o addirittura sul loro sotterraneo persistente antisemitismo da aristocratici. Ma per ora, non avendo sotto mano nessun altro su cui sfogarsi, era con me che se la prendeva. Al solito mi ero voltato a guardare. «Vuoi farmi il santo piacere di star composto?» sibilava lui a denti stretti, fissandomi esasperato coi suoi occhi azzurri e collerici. «Nemmeno al tempio sai comportarti come si deve. Guarda qui tuo fratello, ha 4 anni meno di te e potrebbe insegnarti l'educazione.» Ma non sentivo. Poco dopo ero di nuovo là, che davo le spalle al salmodiante dottor Levi, dimentico di ogni divieto. Ormai, se voleva riavermi per qualche minuto in suo dominio, fisico, intendiamoci, soltanto fisico, a mio padre non restava che aspettare la benedizione solenne, quando tutti i figli sarebbero stati raccolti sotto i talettod paterni come sotto altrettante tende. Ed ecco, infine, lo scaccino Carpanetti era già andato in giro con la sua pertica, accendendo ad uno i 30 candelabri d'argento e di bronzo dorato della sinagoga, la sala sfolgorava di luce, ecco, trepidamente attesa, la voce del dottor Levi, di solito così incolore, assumere di colpo il tono profetico adatto al momento supremo e finale della Berachà. Yahweh Adonai, attoccava solennemente il rabbino, curvo, quasi prostrato sulla tevà, dopo essersi ricoperto la torreggiante berretta bianca col taled. «Su, ragazzi», faceva allora mio padre, allegro e sbrigativo, schioccando le dita, «venite qua sotto». In realtà, anche in quella circostanza, l'evasione era sempre possibile. Il papà aveva un bel pigiare le dure mani sportive sulle nostre collottole, su quella mia in particolare. Sebbene vasto come una tovaglia, il taled del nonno Raffaello, di cui si serviva, era troppo liso e bucherellato per garantirgli la clausura ermetica dei suoi sogni. E infatti, attraverso i buchi e gli strappi prodotti dagli anni nella tela fragile, che odorava di vecchio e di rinchiuso, non era difficile, almeno a me, osservare il professor Ermanno mentre, lì accanto, le mani imposte sui bruni capelli di Alberto e su quelli fini, biondi, leggeri di Nicole, scesa a precipizio dal matroneo, pronunciava anch'egli ad una, tenendo dietro al dottor Levi, le parole della Berachà. Sopra le nostre teste, mio padre, che dell'ebraico non conosceva più di una ventina di vocaboli, i soliti della conversazione familiare e d'altra parte non si sarebbe mai piegato, taceva. Immaginavo l'espressione improvvisamente imbarazzata del suo viso, i suoi occhi, tra sardonici e intimiditi, levati verso i modesti stucchi del soffitto o verso il matroneo. Ma intanto, da dove ero io guardavo di sotto in su, con stupore e invidia sempre nuovi, il volto rugoso e arguto del professor Ermanno, in quel momento come trasfigurato. Guardavo i suoi occhi che, dietro le lenti, avrei detto pieni di lacrime. La sua voce era esile e cantilenante, intonatissima. La sua pronuncia ebraica, raddoppiando frequentemente le consonanti e con la Z, le S e le H molto più toscane che ferraresi, si sentiva filtrata attraverso la duplice distinzione della cultura e del ceto. Lo guardavo. Sotto di lui, per tutto il tempo che durava la benedizione, Alberto e Nicole non cessavano di esplorare anche essi tra gli spiragli della loro tenda. E mi sorridevano e mi ammiccavano, ambedue curiosamente invitanti, specialmente Nicole. Sandro Lombardi ha letto Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.